Mettete portante, tutto si risolve, a tutto c'è rimedio, tranne che la morte. Infatti. Ma peccato per quel mic, perché la timbrica era buona, la timbrica era molto buona. E vabbè. C'è il CRC, tanto più che qua devi aprire il mic per cambiare la batteria. Non ha sportellino. Devi svitare il, come si chiama lì, il Musellus, l'attacco per il gancio, il gancio per il mic, lo svitti, togli proprio la calotta dietro, aspetta il telefono, mamma mia, il maresciallo è. Comunque non emettere CRC che lo isoli. Mia zia io la chiamo il maresciallo, no? Perché mi fa trottare. Però ogni volta per cose futili, cose, poi si dilunga, mamma, poi mi chiama mamma, poi cose, cioè io non posso stare anche in radio, tranquillo sempre. Chi chiama il telefono, chi chiama dalla camera, una rottura di balle. Non ha giugana, vabbè, ciao a tutti, da tanto che il canale è morto. Il canale è morto, c'è Gianni che gli ha fatto danno quell'antenna, gli ha rotto la filettatura di dove si abita l'antenna. Ma con l'antenna nuova? E io? Come? Manco ho comprata? Il cacchio! Ah, deve essere che ha usato uno di quei PL Luschi. Tutto male, manco un PL in coso trovi. PL che non ha vita, un PL a cui esce il centrale, a cui esce il coso, l'isolatore lì. Fuori di gabbo, guarda. Io. L'ultimo PL che avevo non è uscito il coso, il centrale. Il PL del capo. Oh, è strana qua la situazione, no, non vedo salire la lancetta mentre parlo, è strano il suo smitter, anche questo è la frutta, vediamo qua, hola, ah ecco, ho capito perché. Perché è successo ciò? No, perché adesso è nature vedo i picchi, vedi, hola, li vedo bene, se invece non è nature, allora si limita un po' lo smitter, non ha i picchi che dovrebbe. Ascolta, ma Gianni gli ha difettato il PL che va al baracchino o il PL dell'antenna stessa che si avvita sulla base a PL? Ma penso il PL del baracchino che si sia sanato. Adesso tocca cambiarlo quello. Vabbè, se quello è poco danno. No, credevo l'antenna stessa nuova. Ehi, perché non bisogna avvitarle troppo a me. Se tu vai a vedere i particolari come sono fatte dentro, queste antenne a PL, certe sono fatte per rompersi, e se no come fanno a vendere un'altra antenna lì? Vabbè, però un limite alla decenza come, per come sono costruite dovrebbe esserci. Infatti, la presa del baracchino si deve essere rotta, se ho capito bene. La presa del baracchino, allora bisogna aprire, mamma mia, secondo che baracchino c'ha quel circuitino, qua era tutto chiuso nel metallo, una scatolina di metallo, labirinto, tutto sallato fuori, dentro, non si capiva come si apriva sta storia, ti ricordi la storia, no? Vediamo cosa dice Gianni. Allora, il PL era di quelli bastardi che non avvitano, io ho cercato di avvitarlo pensando che avesse ancora filettatura, invece non ne aveva, era di quei PL che non avvitano bene, Natali. Ma è sparata quella del baracchino la cosa oppure è il PL che non avvita? Il PL non avvitando ha spanato la filettatura del baracchino. Ma, le baristrano. No, Natali, c'erano i PL con filettature col passo che non era proprio standard, fatto male, e se forzavi ti mangiava la filettatura che è lieve in certi baracchini. In certi è fatta meglio, più rilievo, ma in certi, tipo il 3009, per esempio, è proprio a filo. Basta che tu la forzi appena e fai danno. Hasta là tocca aprire il baracchino e cambiare la presa, già. E così pare, un'altra rottura di scatole mi. È che qua non posso bestemmiare, porca miseria. Io bestemmio in privato. E tu non bestemmiare. D'altronde, il responsabile di tutto chi è? Il principale, no? E se no, con chi me la prendo io? Gianni, ci sei? Allora, quel cacchio di microfono KPO che ho io sto facendo lo stesso difetto del tuo. Il PTT fa scariche e a tratti non esce di radio. Cioè, usato due volte, tenuto nel cassetto. Boh, guarda, ne ho scatole piene queste amplificate, non ne compro mai più. Puliscilo, io l'ho pulito col coso, con l'aria e col come si chiama. Va bene adesso. Sì, però già, c'è un mic nuovo, tenuto sempre nel cassetto, non dico alla polvere fuori. Porca miseria, ecco che mi chiama. Dai, stacco. Ciao Gianni, Natalino e gli ascoltoni, ciao. Ciao Marco, non mettere CRC in me, che lo isoli, ci vuole spray per contatti. Lo so Natalino, spray per contatti e anche come si dice, il soffio, un po' d'aria. Lo so, purtroppo fanno quei difetti lì. C'è un falso contatto qua, bumbu. Cosa già? Lo devo guardare, lo devo smontare il tutto adesso e guardarlo bene. Sciappa. Anche mettendogli l'altro PL non avvita più. Chi cazzo, duffa di mia ragnata, che... Com'è? Di quelli da pannello che hanno le quattro vittine? Oppure di quelli con la... come si chiama? Col dado? Non lo so Natalino, sono al buio, non lo vedo. E vabbè, me lo dici quando... che qualche luna già ce l'abbiamo di quelle... Adesso sembra che stia tenendo, perché me ne accorgo che lampeggia anche quando non fa massa bene, lampeggia anche lo smitter. Ho capito, penso che è una bella sfortuna con questi piedi del cacchio. Non fa massa bene, no. Natalino, cosa mi hai detto un attimo fa? Di non mettere? CRC, ma non essere che quello te lo isola, ci vuole solo per contatti. Sì, sì, esatto. Io lo chiamo CRC, però è spray per contatti ed è quello che evapora quasi all'istante, cioè tu lo spruzzi e passa allo stato liquido proprio aeriforme. Cioè sublimami, evapora in pochi istanti. E quello Dreigot, preso da Fusaro, che costa in pari 8 euro a bottiglia. Esatto, ed è spray per contatti, c'è un fiago però, c'è un odorasso brutto e. Vabbè. Fottitene dal fiago, l'importante è che si risolva il problema. No, il CRC no, è olio, è... ma mi pare che Gianni forse non ne aveva altro a disposizione, una volta ha usato quello marino, il CRC marino, che poi è oleoso, quello è terribile. È un olio quello lì, è... non va bene per i contatti, capito? Chi si divisa è già vero. Io lo avevo, ma lo usavo per altre cose, lo usavo sempre cose di CRC marino. Quando avevo il maialetto, quello che andava in acqua, con la motore a benzina. Sai, per lubrificare l'assere, l'elica, piccole cose, dai. Quello andava bene, perché era proprio per l'acqua salata anche. Poi ho avuto il balistol, lo usavo per roba tipo armi, no? Il balistol, quello era eccellente. Poi cosa mi è rimasto? Vediamo. E roba commerciale, da, adesso non vedo le bombolette. Ecco, VD40, viti, bulloni, roba un po' rugginosa, quello lì per sbloccare, dai, VD40. E poi lo svitol, ecco qual era, però quello l'ho finito. E comunque mi, quando per esempio l'alluminio grippa, tipo antenne, no, di cui si sono saldati gli elementi, i segmenti dello stilo, non ci sono santi, c'è un metodo, mi pare, lo devi riscaldare e poi battere, non mi ricordo com'era. Riscaldare lo devi, per sbloccarlo, sennò venuta arriva. Però certe volte è notato, diventa tutt'uno, diventa un pezzo unico, non ci sono santi. E infatti lì alla fine si buttano, è inutile stare a... Ok. Lo so, l'ossido è che lo fa diventare tutto un pezzo. Hola, sì. Oh, che sia riuscito in queste giornate belle a farmi un giro per i cavoli miei, a provare che ne so antenne, devo collaudare quella LS145 della Telecom, l'avevo solo taratta, però dovrei fare la prova a fianco a fianco con l'altra, come si chiama? Con la Midland ML145, per vedere se a parità di base è migliore l'una o è migliore l'altra. Poi il progetto è uguale, però sai, certe volte ti cambiano quei piccoli particolari, come è realizzata la bobina di cortocircuito, che ne so, magari due spire in più, due spire in meno nella bobina, boh, non macello. Già lo so che fanno casini, ma io sono contento che ho risolto questo problema qua. Sì, quello è una gran cosa, Natali. Adesso però devi far allacciare tutta la via alla tua antenna, se ti TV. Sì, appaiamento, sì. Chiudigli, volete che risolva il problema definitivamente, vi pagate un tanto e vedrete la TV per sempre benissimo. È perfetta, poi. Ma cosa ha detto? Che ti aveva fatto un dispetto, che ti aveva tolto un tirante? Ehi, domenica, dove era legata l'antenna? L'ha sciolta lui e se ne stava andando per i cazzi suoi. Ah, così è, col cacchio l'avrei lasciato la mia antenna? Non va bene però. Io il tirante c'era da legargli dal collo e lasciarlo penzolare. Veramente io stavo salendo e buttarlo giù dalla finestra, no? Così risolvevo il problema definitivamente. Una scena lì, è una specie di giungla praticamente. Mi ha rubato le forbici addirittura, è un ladro pure questo, va, non gli ho detto niente, ma lo sa, lasciamo perdere. Lui la sta perdendo anche a spese mie, le 23 euro le ho pagate io, non mi ha detto niente, quanto ti devo dare, non mi ha detto manco un risso. Io, va bene, a te comunque, dai, in altre sedi. Ricordati che i muri hanno orecchie. Ehi, oi. Cosa vuoi dire? Che succede? Adesso mi tocca ricomprarmele perché ne ho un paio che non tagliano manco l'aria. Ui, sono tutto scioccato. Lo sai, sono tutto rintronato proprio. E se non hai dormito per forza? E poi, Natalì, per quella memorizzazione, mi sono reso conto che i canali, alla fine in chiaro, è rimasto il canale monitor, 525, non esiste più il Ponte Cesar, spesso gli altri canali, quelli tipo Ponte, sono tutti settosegnali digitali, cioè ben poco da memorizzare, Cemi. C'è 433 550, poi c'è l'R7, l'R2 Alfa, e funzionano qui, perlomeno, io non so più ascoltando, non ne so. Ma sai perché io ricevo anche poco? Perché da quando ho tolto tutto al terrazzino non ho manco più l'antenna esterna per ascoltare, per quanto bassa. Sono con l'antennino interno, quindi quello che sentivo prima non lo sento, però è vero che sui canali di Ponti, tipo se sono Ponti, 6625, 7875, sento dei segnali che sembrano segnali digitali, probabilmente o è DMR o è qualche altro sistema digitale, e quindi cioè non sente più niente, quasi più. E vuol dire che li hanno cambiati da analogico a digitale, se è così. Cioè le frequenze sono tante, guarda, 14 canali memorizzati ho, però sento ben poco, sono sempre vuoti, o vuoti o roba digitale, oppure in chiaro a 525, in chiaro. Per il resto, poi vabbè, con l'antenna interna può darsi che parlino da lontano e non li sento. Va bene. Andrà bene a me, da cosa vuoi ti dica io? Io per i problemi che ho di salute sto abbandonando tutto, perché cosa mi metto? Non è più giusto. Ma per la patente? Lo passo. Per la patente, ciao Lu. E anche quella, non me ne frega più nulla, guarda. Sono disgustato. Mica c'è Luca anche. Vedi tu a Natale, sì, vabbè, anch'io c'è uno spallamento che altro che baracchino, è tutto. Riprendi Luca. Luca non riprende. Si sta drogando quel cocomane. Al basso. E cosa vuoi passare? Non sento niente io, chi è? Ho aperto lo squel, c'è tutto adesso, ma non sento nessuno, avanti. Ciao Marco, ciao Natalino, non c'è nessuno. Quanto è un'oretta fa c'era un po' più movimento, c'era Franco, Gianni, chi tutto c'era. Adesso è un po', vabbè. Gianni c'ha avuto un piccolo problema con un PL, quindi ha dovuto staccare, era in macchina. Ma se vedi questa canzone di Sanremo, questa qua sì. Questa canzone ha meritato tutto, ho guardato Sanremo, sono sincero, ma questa canzone ha meritato di vincere, Chi lo sa se anche lì è tutto già predefinito, come dire, cioè fanno il concorso ma sanno già che vince, come i concorsi pubblici. Si dice preconfezionato. Come altri tipi di concorsi ed esami che sanno già chi deve passare e chi no. Stranamente sono quelli di fuori, quelli di qui nulla. Boh, chiuso. ridi. E perché io lo so come funziona, è per quello che rido. Più che ridere non posso, perché se mi arrivo è meglio che non mi arrivi, va. Diciamo che mi arrivo e mi vedete incazzato, sono cavoli acidi. Poi c'è questo Luca che mi provoca sempre. Mi... Vedi, 525, sento qualcosa però e il seriale è basso. In antennino non prendo niente, è un antennino praticamente di 50 cm telescopico, ma non basta. Poi qua, siccome, ti spiego Natale, siccome siamo circondati dal ponteggio, c'è tutto ferro fuori che fa bene o male da schermo. Cos'era? Quello che stavi dicendo tu. No, l'abbiamo ripreso assieme, non ho capito cos'era, chi era, se era la registrazione. No, quello che hai detto tu poco fa erano. E io, se no ti dicevo che qua sono schermato, con l'antenna di sono tutto schermato dal ponteggio, non passa niente qua. Lo so. E poi stanno andando a rilento qua, mamma mia. Cioè... non si finisce più, qua devono essere 6 mesi da voi, qua diventano 12 mesi, 18 mesi, vabbè. Comunque a tali visto il governo ha bloccato tutti quei nuovi 110% perché non è per cattiveria, lo dicono, è che ci hanno abusato facendo, presentando cose gonfiati, ma gonfiati di brutto, me. Conti gonfiati, materiale sì che è aumentato di 2, 3, anche 4 volte, ma ci hanno mangiato tutti, hanno fatto un bel di mafia, cioè roba proprio illecita. E quindi troppo, hanno concesso troppo, hanno controllato poco, perché facendo verifiche sarebbero accorti delle magagne in stile Napoli. E adesso l'hanno tolto. Non lo sai che in Italia è tutto truffe. Ma il reddito invece di cittadinanza che fine ha fatto? Ah, non so nulla io. Dice che lo vogliono togliere, solo che l'Europa gli vuol fare le sanzioni di brutto all'Italia. Se tolgono il reddito di cittadinanza avviano la procedura di infrazione. E poi l'Europa impera e l'Italia deve stare a 90 gradi, vabbè. No, ma dico, la Meloni è cattiva, vuole che i poveri siano poveri, no, però lì anche lì c'è stata una gente che non aveva diritto, che aveva appartamenti, macchine, che si faceva vedere con le scarpe bucate, pur di avere questi soldi. Ci hanno fatto un bel di mafia, un bel di intrallarsi, e quindi quando la gente ne abusa, chiudono i rubinetti, capito? Perché la legge era ingiusta, la verità, era ingiusta. A parte che questi africani, cosa cazzo gli dai agli africani, il reddito di cittadinanza? La rubicata si è avvicuta in mari subito. Sono agli italiani e a quelli che ne hanno bisogno. Capito? La gente bisognosa, quelli disabili, a quelli lì avrei dati il reddito di cittadinanza, che prendono una pensione che fa ridere. No, amici, i giovani vanno a lavorare se ne trovano lavoro, perché c'è anche il problema che il lavoro per tutti non c'è. Sì, è vero, è vero. Siamo troppi, non è che tutti possono... Sì, i posti disponibili sono quelli, almeno che ne sono statali o privati. È quello che... Sì, questo non l'ho capito. Reddito e cittadinanza, se non hanno cittadinanza, che reddito dovrebbero avere? Vabbè. Comunque l'Italia sta... La vedo male. Poi a Roma è una cosa incredibile. In certe vie non puoi passare perché... ci sono le tendopoli con questi sempre di solito africani, ubriachi, ti arrivano con la bottiglia rotta, ti tirano roba, che se non hanno il coltello pure, non puoi, poi la notte non puoi proprio passare. Tutto in malora sta andando in Italia, tutto quanto. Vabbè. Infatti poi io a questi che reddito di cittadinanza è se uno è senegalese o è nigeriano, non ho capito, punta nel mare. Vabbè, a parte quello, però Lampedusa sta esplodendo, se ogni volta, ma poi scusa, non ho capito, questi scappano dalla guerra, io vedo questi giovanotti, questi neri, alti, belli, ben piazzati, ma questi anziché imbracciare il fucile e difendere il loro paese, cosa fanno? Scappano. E come va? Nel loro paese può anche bruciare e loro se ne cioè, scappano per altre contrade, così funziona. Ma... E funziona così, funziona. Invece loro dicono noi andiamo in Italia così almeno ci danno i soldi. Cazzo, non hai compreso. Anche la storia delle nomadi, se guardi i video su YouTube, queste nomadi, anche giovani, tutti i giorni lì, poi c'è gente che se le scassa, no? Va col megafono a dire attenzione, stanno rubando cose, ma non le possono arrestare, sai perché? Perché se sono incinta non le puoi mettere in galera, c'è proprio una legge o cos'era, siccome queste zingare sono sempre perennemente incinta, in galera non vanno mai, e stanno ogni giorno a rubare sulla metropolitana. Adesso uno dice vabbè, però se poi allora vuoi tornare come un tempo, allora sei fascista, sei razzista, non è questione di razza, è questione di rompiballe, mandarli via. Come fa la Francia? La Francia fa così, li prende e li rispedisce indietro, e beh, noi dobbiamo prendere e rispedirli indietro, accompagnati al confine col foglio di via e il timbro sul documento ospite indesiderato. Ma tanto se arrivano anche clandestini senza documenti, e come li identifichi? Come fai a sapere che quello è già stato lì? Vabbè, fotosegnaletica, quello... comunque anche rimpatriarli costerebbe andare lì. Se cosa fai? Viaggi tutti i giorni, viaggi su viaggi in nave per portarli lì. Ma a parte che in Libia manco ti farebbero avvicinare, o glieli scarichi al largo della Libia, in mare. No, non sarebbero neanche arrivati. Le navi da guerra perché ce le abbiamo noi. Una mitragliata davanti e una mitragliata dietro di quei veleri scappando. No, ma le navi da guerra servono per aiutare Zelensky e ci mancherebbe la NATO, gli americani. Mica per queste cose. Ah, Zelensky, una bomba in culo. Come sei colorito. Ecco da vuoi fare. Arrivato un cazzo a fuori dai coglioni, ma anche dall'Europa me ne sarei andato, perché stiamo ingrassando il culo agli altri. Vabbè, Luca, cosa ne pensi? Noia, non ho voglia, Luca. Io mi sto stancando, a tardi io stacco, rimango all'ascolto, casomai faccio qualcosina in casa. E basta, dai. Non c'è mordente, non c'è nessuno, eccetera. Vabbè, ciao Marco, dai, grazie per le quattro chiacchiere, ci sentiamo alle prossime. Tanto rimango all'ascolto anch'io, se c'era qualcuno magari già risponde. Ciao a tutti, per il momento che mangio qualcosa. Buona cena, ciao Luca, gli ascoltoni, ciao a tutti, ciao. Hola, hola, attenzione, binario 10, cambio. Ora, prove tecniche di trasmissione. Vabbè, l'hai trovata la radio, ciao Gian. Eia, sono con quella antenna, però ho avuto un problemino. Praticamente non avvitava il PL al baracchino, andava a vuoto, aveva il PL di quelli fasulli. No, ho capito, quello che era sull'antenna proprio. Sì, io avevo paura che mi avesse spanato anche col baracchino, invece gli ho cambiato il PL, adesso sto uscendo, sto provando adesso, l'ho finito di piazzare adesso. E dove sei già? In mezzo ai palazzi sono Carlo. E quando passi col segnale forte e poi a volte ti perdo, però poi quando ti risento è a fondo scala. Perché questo microfono sta facendo i capricci, capito? Sta facendo i capricci, aspetta. Ok, vediamo un pochettino se si comporta bene adesso, dai, stava facendo i capricci. Sì, adesso è Santiago 9. Prima era Fondoscala. Sì, come hai fatto il passaggio prima, sì. E come mai? E come mai? Ora, ora, attenzione, binario 10, cambio. Sempre 9? Sì, sì. Praticamente io ho i LED, con questo non è una, con l'altro magari era più preciso, c'era la scala sino a 9 col più 30, capito? Invece questo ce l'ha piccolissima, fai un altro passaggio e proviamo. Ora 1, 2, 3, prova, cambio. Sì, 9, 9, poi c'hai, come parli, sale a più 30. Perché ha picchi positivi, lo vedo anche qua, vedo anche qua. Già va bene, dai, va bene, dai. Non è entrato nessuno. No, io infatti ti avevo mandato un messaggio a chiederti se avevi avuto la possibilità di provarla poco fa, e la radio l'ho collegata solo adesso io. Poi Carlo, sono tutta la sera che sto battagliando, saldando, mettendo PL, togliendo la base dell'antenna dalla macchina, insomma un casino. Vabbè, dai, poi domani magari avrai più luce, più tempo per sistemare meglio tutto. L'importante è che, insomma, che sia tutto a posto. Sì, a volte capitano quei PL che sono difettosi, praticamente non entrano nell'attacco della radio e lo devi sostituire. È capitato anche a me quello. Mi stava spanando anche l'attacco del baracchino, immaginati. Sono quelli fasulli che mettono. Evidentemente nei baracchini più moderni adesso ha un passo diverso leggermente l'uscita dell'antenna dalla radio, capito? Invece quelli precedenti avevano un po' più l'attacco più larghetto e quindi non entrano. Ecco, buonasera. Ciao vai. Ciao Gavino, buonasera. Buonasera Carlo. Ciao Gavi, buonasera. No, mi ascolti, cambio. Buonasera Carlo, stavo ascoltando l'amico da chissà dove. Ciao Gavi, ma non lo senti Gianni? Sì, positivo. Ciao Gianni, buonasera. Avanti. Ciao Carlo, ciao Gavino, Natalino, lo saluto, ciao Gianni. Io ti ascolto Gianni, dimmi tutto. Si è arrivata l'antenna finalmente, Gavino. Questa è l'antenna che io avevo ordinato. Anche a me oggi mi è arrivata già, consegnata stamattina. Arrivi bene già, dai che ti do un controllo. Fai un passaggio. Sono in movimento, Gavi, dopo mi fermo e me lo dai da fermo. Io da qua mi sta arrivando Gianni, ho il filtro. Comunque 9, sì, da 9 a 9:10. Radio comprensibilissima, non ti posso dare 5 perché si sente che sei in movimento, però io ti capisco benissimo. Cappa Gavino, pensavo che non mi stessi ascoltando poco fa. Hai visto Carlo? Sì, buonasera Natalino, è entrato Natalino prima a salutare. Sì, già, è importante che vada bene, dai l'antenna. Va bene, sono contento. E poi ho risolto la situazione del PL, che pensavo che fosse spanato il coso del baracchino, la filettatura. No, sono quei PL lì che hanno un altro passo e quindi devi trovare quello giusto. Vai Natalino, c'è Gavino anche. Ciao Gavino, ciao Carlo e Gianni, buonasera dai. Buonasera Natalino, ben sentito. Buonasera. Avanti Gianni. Adesso mi sono fermato, dai. Va meglio o peggio? 9:20 radio 5. Buono, dai. Già vanno bene queste antenne, dai. E Gavino non è a due passi, No, negativo, io ti ascolto benissimo Gianni. Avanti Carlo. Sì, altrettanto. Sì, 9:30 qua già. Natali, come lo senti tu Gianni? Benissimo, non so come mi state ascoltando voi. Io ho risolto il problema del TVI e quindi sono felice. Natalia, cosa aveva? Sto vedendo la televisione dalla mia antenna praticamente. Ho messo un partitore e gli ho agganciato la mia antenna praticamente. E quella lì che Francia di 40 anni non la usa più. È positivo, così Natali c'è anche un rapporto, così dici, così vedi anche, cioè se non la vedi tu non la vede neanche lui, quindi anche un, dai, puoi fare un rapporto di qualità o di qualità video, quindi se disturba lui disturba anche a te, non si può appellare a niente. Bravo, bella storia, riprendi Gianni. Mi sa un po' di saprofitta il signore, stavo aspettando che gli mettesse la roba lui, poteva mettersi un'antenna nuova, va già prima. Va bene, dai. Io mi sono fatto un giro in macchina per provare questa radio, per vedere. Come andava. Il PL col che è data lì. Va benissimo. Meno male. Lui l'antenna non se la può mettere perché sul tetto non ci può salire, che non c'è botola e non c'è nulla per poter accedere al tetto. Che hanno chiuso tutto questi qua e c'aveva un'antenna di 40 anni fa. È logico che adesso se gli è deteriorata e prendeva colpi. Ho capito. Vabbè, questa è solo una prova che stavo facendo. Mi sa che adesso vado a casa e riprendo da lì, perché vabbè, non c'è freddo, si sta bene. Oh Gianni. Dimmi Gavi. Mi stai ascoltando? Io a te. È positivo. 75 qua, capito? 9:25 dove sono io, non sono a casa, ti ripeto, sono lontano da casa. È positivo. Mi l'ho portata a vedere un amico e l'ho piazzata in condizioni precarie. Questa è lei. Ah, l'hai già piazzata, ma in buone condizioni, Gavier. Caspita, è nuova. L'ho già, perché sono tornato poco fa a farla vedere un amico e l'ho messa in condizioni precarie così su un cavalletto, diciamo, di autoparlanti, allungato il PL, sto usando a lei adesso, sono sotto accordatore dell'apparecchio, però guarda se va bene. Benissimo, capito. È positivo, devo regolarla perché senza accordatore arrivo a 1,8, mentre con l'accordatore nella porta diciamo 1,1. Tu Carlo, come mi occupi da te? Allora, Radio Super 5 Santiago 8, con quanti watt sei? No, i watt sono sempre quelli della radio, del Kingwood. Sto usando una Firenze 2, un'antenna Firenze 2. E da dove l'hai risumata, Gavi? Nuova dalla Sicilia, cioè nuova del 1973-76, ma mai installata, mai piazzata sul tetto, mi è arrivata stamattina e l'ho portata poco fa, ripeto, a farla vedere un amico, e l'ho messa su un cavalletto di reggio autoparlanti, era usando le condizioni precarie, ma a 1,5 metri dal tetto. Sì, la radio è ottima, ti sento perfettamente. Il segnale, io ho la radio piccolina, perché la mia è fuori uso, dovrebbe essere abbastanza affidabile, dai, a 8 mi ho messo gli occhiali che ingrandiscono, 8 pieno, capito, e niente, già va bene comunque. È positivo, Natalino, tu come mi occupi? Lo stesso, bene, non so come ti arrivo io lì, ma stai arrivando benissimo. Natalino, una Firenze 2 mi chissà. Sì, già ho copiato, bella antenna. Sì, dai, l'abbiamo presa, poi per la cifra l'ho pagata 40 euro spedita, quindi ne valsa la pena. Bene meda, bravo Natalino, hai fatto bene a fare quel collegamento alla tua di antenna, così non hai più noie, dai, se va bene la tua di TV va bene anche quella, per cui puoi trasmettere con più, diciamo, cuor leggero. Infatti, come ti sta arrivando il segnale, Carlo, sia a te che a Gavino? Volevo sapere questo QRK, dai. Allora, qua mi sta arrivando 9 più 20, 9 più 20, capito Natali, la radio è troppo preamplificato, il microfono e si sente molto il rumore di fondo. Se abbassi un pochettino forse è più chiara, capito, perché prende molto i rumori di fondo, si sente la TV eccetera, però diciamo il segnale è ottimo. E cappa, dai, adesso l'ho abbassata, vedi un po' se va bene. Perfetto, perfetto, così è molto molto molto più chiara. Natali, qua da me sei 9.15, picchi positivi a 9.20, radio Super 5, concordo con quello che ha detto Claudio, che hai molti rumori in sottofondo dietro, potresti abbassarlo ancora un altro po' il microfono, così schiarisci più la voce e elimini un po' quei rumori di sottofondo. Avanti Gianni. Sono sotto casa, Gavì, me ne sto andando a casa, dai, io ho finito tutta la parata, avevo questa paranoia, ho dovuto smontarle tutto, dai. Vabbè, io ritorno a casa, riprendo da lì, al limite ci sentiamo, dai. Ciao. Eia, ciao Gianni. Vai Natalino. Eia, guarda, adesso ho abbassato ancora di più. Guarda, se abbassi un altro po' sì, perfetto, se abbassi un altro po' da me, almeno da me sì, perfetto, perché ti hai eliminato molto il rumore di sottofondo, abbassa un altro pochino Natali. Guarda, adesso è abbassato proprio di brutto, il macchinino ha abbassato il microfono, non lo posso abbassare questo. Guarda, secondo me si è alla grande, secondo me si è alla grande, non so se Carlo conferma, avanti Carlo. Sì, sì, e beh, più abbassa la preamplificazione più chiaro si sente lui, se no era lui che si trasportava tutti i rumori di fondo, capito? Per cui va benissimo così Natali, molto più chiaro. E questa è una V508, capito? È collegato all'ICOM 725. È positivo, va bene, così secondo me va bene Carlo. Sì, sì, perfetto, perfetto. Più ne togli di preamplificazione, perché quello del microfono che ha lui è micidiale, senti tutto, senti anche quando cambia canale alla TV. È molta amplificazione, magari. Ha molta amplificazione. E va bene, va bene. No, io sono sempre con la solita tua, sempre con i miei classici 15 watt di portante bianca e 25, ma 15 watt di portante bianca e 35 modulati. La radio è ottima, ottima, ottima, bella, chiara, limpida come l'acqua Recoaro. Adesso sono al minimo dei watt, guardate un po', al minimo dei watt sono adesso. Natali, qua fondo scala per me, non ci sono problemi, adesso che hai tolto la preamplificazione è proprio la voce tua. E beh, adesso sì, l'ho messo al minimo proprio, anche il watt ho tolto. Avevo una quarantina poco fa, adesso sono al minimo. Va benissimo così, va benissimo così. Adesso guarda, la abbasso anche io un pochino il watt, perché non ce l'avevo ieri un pochino alto di wattaggio, però lo teniamo così, lo teniamo così. Ma va bene, io sto uscendo con 4 solo, solo con 4. E qua sei 9.20 Carlo, ma tu hai la posizione comoda, lo vedi anche io che arrivo un po' basso di segnale, perché diciamo io sono un po' nascosto, dai, però tiriamo a campare come si dice, avanti Natalino. E adesso sono proprio al minimo consentito da questo apparecchio qua, dai. Va benissimo, erano delle prove che dovevo fare. Guarda, io ti posso dire che quest'ultimo passaggio che hai fatto è perfetto Natali, la radio è chiara, la tua voce è proprio soave a sentire, capito? Invece prima era troppo preamplificata, capito? Forse stavi usando anche troppa potenza, per cui era anche quello, però bastano pochi watt, già anche tu sei in buona posizione qua arrivi a fondo scala, per cui per me non ci sono problemi. Adesso chiedo a Gavino se è possibile controllare come sto arrivando in questo momento, e adesso invece provo ad attaccare, in questo momento attacco, se mi dai un riscontro. Adesso sono sopra, adesso sono sopra di 50. Ok, allora quando diciamo andavi in origine eri segnale 95 a picchi positivi, a me arrivavi picchi positivi quasi a 9.10, adesso non vuoi una tacchetta, mentre quando hai agganciato con il tuo gas eri a picchi, segnale 9.20, la radio ha aumentato di molto, eri però 9.20 senza picchi positivi, 9.20 fisso. Va bene, la radio ha aumentato del 50% e il segnale non ha avuto grandi variazioni. Ho capo, già sta andando tutto bene, allora già è collegato tutto, perché ho tirato un po' i fili eccetera e volevo vedere se andava tutto. Dai, adesso sono tornato normale, anche perché a quest'ora in effetti c'è gente che guarda la TV, non si sa mai, capito? Meglio andare bassi. No, vabbè, io non ho di quei problemi, io qua posso andare con quanto voglio. c'è gente che abita vicino a me, però possiamo benissimo fare quello che vogliamo, dai, non ci sono problemi. Io intanto mentre sto parlando, mi sto regolando un po' il vantaggio di questa roba qua, capito? In modo che, perché è molto sensibile, adesso vediamo un pochino. Riprendi Natalino. Eia. Adesso di molto ho abbassato nei tuoi confronti, capi? Perché io sono al mio adesso, sia di radio che di VAT. Lo terrò sempre così questo. Natalì, guarda, per me sei un signore. Per me qua sei un signore, mi arrivi, guarda, ti ripeto, segnale 9.5 a picchi positivi a 9.15. Quindi la situazione può lasciarla anche così, diciamo, a mio QTH arrivi benissimo, senza alcun problema. E capa, poi per farci la chiacchierata serale va bene così, anche troppo. Infatti questo lo userò poco, userò l'altro, il 3009 che c'ha 4 watt, dovrebbe andare bene. Questa era una prova che volevo fare, perché questo qui non lo uso mai qua. Ma io l'avrei usato, guarda che è una bellissima, è bella, cioè non usarla sarebbe un peccato, anche perché adesso non è che ti metti, non hai neanche problema che disturbi, quindi puoi anche pronto ad operarlo. Cioè avassi di fiumare e di fiumi pure a te, quindi te ne accorgi, non ci sono problemi. Riprendi Carlo. Sì, Gavi. Natalì, ottimo compromesso quello, lo tieni sotto controllo, capito? Se vedi bene tu, vede bene lui, capito? E quindi vai tranquillo, se a tutti i vicini poi non creavi problemi, anche se attacchi qualcosa, vai liscio, dai, è meglio così, almeno ti fai qualche chiacchierata più tranquillamente. Quello sì, abbiamo già fatto le prove, non lo disturbo assolutamente. Poi se non disturbo a me, io ce l'ho sempre il monitor, c'ho la televisione accesa, quindi se io disturbo a me, disturbo a lui, quindi non c'è problema, non disturbo assolutamente. Poi c'ho la Game Master, non ha radiali, non ha nulla. Tu pensa che Giulio c'aveva l'antenna del vicino attaccata alla sua Game Master e non gli faceva nulla. Sì, Natali, io ho praticamente la mia antenna che è sopra, e sotto ci sono le antenne TV del condominio, e non faccio nessun TVI anche quando attacco. L'unica cosa che quando attacco, a volte di giorno che sono sul computer giù, entro nelle casse, capito, del PC, solo quello. E vabbè, cosa vuoi farci? Nelle casse c'entri per forza. È meglio così, dai, niente TV hai neanche per me. Gliel'ho detto, ad uno le casse, uno le ha cambiate e non gli faccio più niente, l'altro ha ancora le vecchie e non le vuole cambiare. Quando mi sente, ho detto, mi mandi un messaggio e ti saluto così e buonanotte, se non mi vuoi sentire cambia casse. Mi pare proprio che sia così la situazione. Vabbè, dai, sono contento, almeno posso usarmi qualche volta questo apparecchio qua. È che mi si è rotto il commutatore d'antenna, per passare da uno all'altro bisogna togliere il capo dell'antenna e attaccarlo nell'altra radio, un macello. Eh sì, quello è comodo il commutatore, io ce l'ho, ti dico che giri la levetta e così non devi stare a scollegare niente, capito? Ma costa poco e già si può facilmente reperire uno nuovo, Natali, magari chiedi in giro, qualcuno ce l'ha. Sì, non costava poco quello che mi si è rovinato, era un Daiwa e costava. Sì, quello azzurro e dietro è color acciaio. E quello lì è? È come quello che ho io, anche il mio è Daiwa, ed è perfetto, funziona benissimo, piccolino, poco ingombro, capito, e passi da uno all'altro senza problemi. E infatti, se lo trovo qualcuno, se no me lo faccio arrivare uno nuovo, da cosa vuoi fare? Eh sì, sì, magari vediamo un po' se qualcuno ne ha in più, capito, è meglio chiedere prima. Ehi, vabbè, dai, vediamo un po'. È che mi è costato quel capo dell'antenna, gli ho comprato il partitore. Quel partitore l'ho dovuto comprare di quelli che fanno passare l'alimentazione per l'amplificatore d'antenna. E quindi ho dovuto comprare quello, 28 euro mi è costato e non mi ha detto neanche se mi doveva qualcosa, capito? Manco grazie se ti fidi. Hai visto. Va bene, dai. Gianni deve essere che sta mangiando, magari sta cenando qualcosa, non ha ripreso da casa ancora, magari entra più tardi. E non saprei, adesso magari già entra, dai. Riprendete, dai, che io adesso faccio QRT, che mi corico un po', sono stanco, sono tutto il giorno in giro. Va bene, Natali, anche io, domani ho il turno presto, e anche io adesso vado a farmi la barba per non stare a domani mattina, così mi devo solo lavare i vestiti ed esco. Io alle 4:30 sto uscendo, alle 5 sono al lavoro, per cui non è che mi posso trattenere più di tanto, dai. Riprendi Gavino, ci sei ancora? Sì, positivo, ci sono ancora, capo. Ci sono ancora, va bene, dai. Io rimango un altro po', aspetto che entra Gianni. Perché io prima non ce la faccio entrare in radio, prima purtroppo la sera non adesso in più non ho più, cioè da adesso in più non ho più tempo di accendere la radio presto, quindi sono, se volete entrare dopo cena io gradirei già. Allora mi trovate dalle 8:30, 9 in più mi trovate sempre in radio la notte. Gianni già lo sa e qualcun altro, quindi da quanto abbiamo fatto un bel qualsiasi, c'era Franco da Sorso, c'era Tino, c'era Dai, c'era un po' di gente. E niente. E la notte è meglio perché ti rimani mai quell'oretta, quella che fai qualsiasi, 4-5 persone. Ed è meglio secondo me. Va bene, e ciao Natalino, buon correti e anche a te Carlo, ci sentiamo tutti alle prossime, buona serata. Ciao Gavino, buonasera, salutaci Gianni se lo senti, se chiama dopo diglielo che io e Natalino ce ne siamo andati a dormire, dai, preparazione per domani che vado a lavorare presto e quindi non mi posso trattenere più di tanto, devo fare alcune cosette. Mi ha fatto piacere sentirti, dai, quando cambio turno, che magari anche io a volte rientro alle 8:30, alle 9 ceno e qualche volta attacco anche io il dopo cena, quindi avremo modo di sentirci qualche volta. Ciao, buonanotte. Buonanotte Carlo, ciao a tutti alle prossime, ciao a tutti, buonanotte. Ciao Gabriele. posizione. Gianni, allora? E allora era turbolente tutta la sera, capì? Perché ho dovuto smontare tutto il baracchino perché pensavo che fosse la filettatura del baracchino, non avvitava l'antenna, non avvitava, girava a vuoto. Ho pensato che mi avesse sparato la filettatura, invece era il PL. Era diverso? Sì, sì, sì. Non mi stavo già preparando a smontare tutto e a cambiare. No, magari sono fatte per, diciamo, hanno un passo diverso dell'aggancio, però non credo che sia un problema, non credo che sia un problema. Gianni, ti sto arrivando saturo io di là a te, Non ho capito, Ti sto arrivando saturo io, in saturazione oppure va bene come modulazione? Leggermente, così. Ok, leggermente satura ancora Gianni, guarda un pochino, fa la cortigiana, devo fare questa prova per il Net Gain, perché mi sto segnando più o meno la distanza. Guarda un pochino. Mi basta ancora per appena. Ok, guarda un po', ancora. Guarda un pochino. Gabi, mi sto mettendo le cuffie per ascoltarti in cuffia. Va bene. Fa passaggio.